A Rock FM sono le 8 spaccate. Seconda ora di pane, burro e burro e rock and roll. La tua colazione rock, buona giornata. La colazione rock. Ben svegliati anche voi della seconda ora. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock. Vi siete persi una gran prima ora di diretta, che sarebbe valsa la pena svegliarsi un po' prima, ma tranquilli, ce n'è una seconda tutta pronta per voi. Testa attitudinale, il topo rogna, topo frigo, leggo da scaletta, ce n'è di robaccia da fare. E soprattutto abbiamo il film che ci terrà compagnia fino a venerdì. Da ieri abbiamo iniziato l'ascolto radiofonico di Amici Miei, e allora pane, burro e rock and roll prosegue così. Tanto è vero che se tu, invece di essere un coglione, fossi un cavallo, ti giocherei a 200. E io me lo prenderei subito. Perché Melandri c'ha un grosso punto di vantaggio. Lui c'ha il grullaio. Chi? Quello che cura i grulli, lo psicanalista. E se una donna va dallo psicanalista vuol dire che gli manca qualcosa nella vita. E cosa manca una donna nella vita 99 volte su 100? L'amore! Oh. È dovenosa, sorella? Cosa ride? Cosa ride, maestro? Rido e me la godo. Se la goda, fa bene. So benissimo che lei si illuminerà, sì, quest'oggi 23 ottobre, certo, alla prospettiva, sì, di esaminare i nati del giorno. Avrei di gran lunga preferito 50 euro, ma mi accontenterò. Iniziamo! Alla grande con il buon compleanno a chi? Gianni Rodari, che figata, nasceva oggi nel 1920, giornalista e scrittore italiano. Grande scrittore di favole, grande affabulatore, grande inventore di storie. Indimenticato e indimenticabile, ci abbandonerà poi nel 1980. Passiamo però a un altro compleante, nasceva oggi ma del 1925, Nanni Loi, grande regista e attore italiano di cinema e teatro. Regista e attore, ci ricordi subito un paio di titoli. Ah, colpo di scena, esca da questo corpo. Allora, no, te lo devo assolutamente dire, i film di Nanni Loi, Nanni Loi, che introdusse in Italia titoli, sì, la Candid Camera. Oh, colpo, vero, di scena, un applauso alla Candid Camera, sì, anche a Nanni Loi, che si chiamava, sì? Sì, era famosissima in America. Quando io ero bambino, certo, negli States, sì, si vedevano le Candid Camera, esatto, di nascosto. Vabbè, le inventò, ecco, lui con la serie Specchio Segreto. Bravissimo, esatto. Ecco, allora le dico adesso i film. Sì, se le vengono in mente. Abbiamo Mi manda Picone. Perfetto. Caffè Express. Perfetto. E Il padre di famiglia. E molti altri. Mi lasci dire ancora. Io lo lascio dire. Detenuti in attesa di giudizio. Perfetto. E Sistemo l'America e torno. Ottimo. Con Paolo Villaggio. Esca da questo corpo. Paolo mentre Villaggio. Sì, non c'entra niente. Paolo Va Villaggio. Va bene. Esca da questo corpo mentre passo a un altro compleanno, quello di Pelé, che nasceva nel 1940, indimenticato calciatore brasiliano. E chiudiamo con il compleanno di Sam Raimi, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense, nato nel 1959, famosissimo per un classico dell'horror. Questo la so. Tipo? La Cava. No, no, c'era. Ci sono andato, c'era vicino. La Casa. La Casa. La Casa, esatto. E il film, sì, della serie Spider-Man. Perfetto, uomo ragno. Grazie mille, maestro. È stato un piacere. I grandissimi Police nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, datata 115, martedì 23 ottobre. Allora, è qualche settimana oramai che stiamo focalizzando il problema calendari. Questo potrebbe essere la prima presentazione. La seconda presentazione è... c'è qualcuno che ha osato dire che non si possono vedere le fotografie via radio e noi di Pane, Burro e Rock and Roll ovviamente non ci stiamo. La terza presentazione che vi faccio, che spesso vi dico, non chiedetevi cosa Pane, Burro e Rock and Roll può fare per voi, bensì cosa voi potete fare per Pane, Burro e Rock and Roll. Si chiama Enrico, ha 33 anni, arriva da Firenze e il calendario lui non lo va a comprare, se lo è fatto. Benvenuto Enrico. Ciao, buongiorno Ari, buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene, mi sono fermato, eh? Hai fatto bene perché sta guidando in macchina. Io non ti ho detto parla pure col telefono all'orecchio. No, ti ho detto. Confermo. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Mi piacerebbe con Enrico aprire un nuovo filone di interazione con voi, perché lo sappiamo che vi siete fatti i calendari da soli. Non vergognatevi di questa cosa, confessatelo a Rock FM. Enrico non fa un calendario con lui da solo. No. Ma lo fa insieme altri miei amici. Sì, si chiama Orgia a casa mia. No, eravamo quasi vestiti. Ah, quasi vestiti. In otto però, quattro maschietti e quattro femminucce. Sì. Esatto. Per intenderci, Enrico, come stai messo? Cioè, come sei? Nella mia foto? No, fisicamente come sei? Cioè, sei un bel ragazzo o sei un rottame? Rottame proprio no, vado in palestra regolarmente, ah. Mi mantengo, sarei venuto volentieri venerdì per la corsa sotto la radio da Firenze a Milano, mi pare un po' troppo. Ma organizzeremo una corsa anche a Firenze, qua promettiamo, poi non facciamo nulla. Occupiamoci del calendario, ti chiederei di scegliere una mensilità e descrivi e faccela vedere. Allora, vi descrivo la mia foto, perché abbiamo fatto, cioè eravamo in otto, una foto personale. Sì. Più quattro di gruppo. Ok. Io avrei preferito quella di gruppo, però partiamo pure dalla personale. Quella di gruppo. Partiamo dalla personale, Enrico, va bene. Ricordo che non eravate coppie, eravate amici e basta. Amici, sì. Proprio amore libero, mi piace questa cosa. Mi piace molto. Passiamo alla foto di Enrico. Mi raccomando, eccitami le radioascoltatrici. Vai! Allora, ho fatto il mio mese di nascita, quindi novembre. Ottimo. Però ho voluto rappresentare una mitica festa dell'anno, l'Oktoberfest. Ok. Quindi? Quindi ero in una terrazza colpita dal sole, quel sole che mi inondava il mio corpo. Un body maschile aperto fino alla zona del pube. No, aspetta, cos'è un body maschile, per favore? Ci sono. Ma cos'è? È una roba attillata? Sì, una specie di tutina, quanto con i corti, ma anche corte, abbottonata davanti. Senti, quindi col petto fuori? Sì. Villoso o non villoso? Leggermente villoso. Leggermente, ma messo bene però di pece, li hai i pettorali? Sì, ce l'ho. Ah. E la birra? Naturalmente avevo il boccale preso in prestito al Oktoberfest, che tutti gli anni dico di riportarglielo, però mi dimentico sempre. Sì, guarda un po'. Vuoto o pieno? Era vuoto. Ma dai, ma Enrico, per favore, è di una tristezza immane quello che ci stai raccontando. No, vuoto vuol dire che... Che l'avevi bevuto. Ah, ok, va bene, ho capito il senso. Vogliamo passare alla parte di sotto o lasciamo stare? Di sotto era tutto coperto da questo body, solo le gambe scoperte, veniva solo fuori qualche idea, perfetto. Vorrei passare all'espressione del viso, stavi interpretando e quindi mi eri un po' sbronzo, così sognante o serio? Non ero ancora a livello della sbronza sognante, però ero a livello della sbronza di ebbrezza. Quindi interpretavi la parte? Sì. Senti, è un consiglio che dai anche agli altri radioascoltatori quello di farsi un proprio calendario? Sì, secondo me sì, è un'esperienza da provare. Da provare, perché anche con le persone che hai intorno, cioè passi una bella giornata. Si insomma. Stringono legami di amicizia, dici? Sì, legami. Io non vorrei insistere troppo, ma quelle a coppia invece? A coppia? Ce n'è una veloce che puoi dire, cioè tutti e otto. Sì, eravamo dentro nel soggiorno, su un divano con delle pelli leopardate. No, incredibile. Con vari oggetti in mano. Tipo, se si può dire. Tipo c'era una spada, per esempio. No, Enrico, ok, fermati qua. Abbiamo capito. Grazie Enrico per la testimonianza. Viva i calendari fatti da sé. Viva Rock FM. Ciao. Ciao. Irresistibile la voglia da Milano, da pane, burro e rock and roll, di aprire, di allargare il nostro orizzonte al mondo. Ma certo, certo, il nostro sguardo vuole essere aperto 360 gradi sul mondo. Ed è grazie alla nostra redazione che possiamo segnalarvi notizie talmente imbarazzanti che gli altri hanno gettato nel tritacarte e che noi abbiamo raccattato e ricomposto con lo scotch. Esatto, e badate bene, non è un raschiare il fondo, no, ma è scegliere l'implausibile, l'impossibile, l'inaccettabile. Quest'oggi, se le va maestro, andiamo in Canada a scoprire un sano divertimento dei nuovi giovani canadesi. Sa cosa fanno? No, mi dica. Gli piace darsi fuoco per gioco. Evviva! Questa volta pane, burro e rock and roll ci sta, soprattutto con i soggetti più antipatici. Ansia in ansia, il significato del termine divertimento a quanto pare non è per tutti uguali. C'è chi trova piacevole uscire con gli amici, passare magari una serata tranquilla davanti a una bevanda ghiacciata, e chi invece, come accade sempre più spesso in Canada, adora cospargere il proprio corpo con dei deodoranti spray infiammabili per poi darsi fuoco. Il fenomeno, da non prendere sotto gamba, è diventato un vero e proprio problema in tutto il paese. Infatti, quello che sembrava all'inizio il gesto folle, demenziale, portato a termine da un soggetto, diciamolo pure con tutto il rispetto dovuto, mentalmente poco stabile o instabile, si è dimostrato essere un vero fenomeno di massa, un'insolita moda che coinvolge molti degli adolescenti residenti nell'Ontario. È una cosa abbastanza comune nella provincia, ha spiegato un portavoce della polizia. I genitori sanno che i figli portano il deodorante a scuola, ma non sono sempre al corrente del fatto che lo usano per incendiarsi a vicenda. Per lo più viene fuori da queste bombolette spray una fiammata spettacolare del tutto indolore, ma il caso recente di un 14enne, badate bene, 14enne, rimasto invece seriamente bruciato, ha portato il nuovo passatempo adolescenziale sui giornali di tutto il paese. Ebbene, da pane, burro e rock and roll non ci stiamo, anche perché, diciamolo, il rocker ha da puzzare, quindi non si deve portare dietro il deodorante. Esatto, questo è un vecchio stereotipo legato all'uomo. L'uomo non può esagerare con i profumi, con i deodoranti. Soprattutto se deve darsi fuoco. Esatto. È una delle prime regole che ti insegnano alla scuola dell'allegro piromane. Join me, baby. L'attenzione da parte dei radioascoltatori, perché è qui che si scopre se siete o non siete dei veri rocker. DJ Ariele, me lo lasci chiedere, lo chiedo. Sale l'attenzione o l'attenzione? Entrambe le cose, perché è il momento benissimo. Del test attitudinale. Il clou di pane, burro e rock and roll. Quest'oggi torniamo a parlare, come spesso e volentieri ci piace fare, di buon cinema. Da qualche giorno è uscito nelle sale cinematografiche il nuovo film del regista Todd Haynes, si intitola I'm Not There, Io Non Sono Qui, un omaggio alla vita, le opere e la carriera di Mr. Bob Dylan. La domanda che vi poniamo è: vi ricordate chi interpreta il personaggio di Dylan nel film? Tre possibili soluzioni. Allora, no, abbiamo Mike, le tre buste, sì, la busta numero uno, l'aprati, la busta, la prego, numero due e la busta numero tre. Allora apro la busta numero uno. Tre. Non spacchi il microfono, la prego. Ipotesi, ecco, A. Ipotesi A: Bob Dylan in persona. Perfetto. Busta B: il fratello gemello di Bob Dylan. Ipotesi C: l'attrice australiana Kate Blanchett, una donna. Esattamente, filologicamente preciso. Chi ha interpretato Bob Dylan nel film I'm Not There? La soluzione, come al solito, ve la diamo dopo, e cioè la risposta a tra poco.